Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno e buona domenica ai nostri ascoltatori. Con queste note un po' classiche e un po' moderne, iniziamo l'incontro di oggi, l'incontro con Brunello Cucinelli. Buongiorno Cucinelli. Buongiorno e buona domenica a voi. Un po' classiche e un po' moderne, mi sembra che riassumano in fondo la personalità di Brunello Cucinelli. Brunello Cucinelli è un imprenditore, tra l'altro ha vinto quest'anno il premio dell'imprenditore dell'anno, un imprenditore nel campo della moda, del campo del cashmere, ha un'azienda nei dintorni di Perugia, poi andiamo a vedere più precisamente dove, un'azienda che è cresciuta molto negli ultimi anni grazie all'imprenditore, come tutte le aziende, ma grazie anche, lo dirà, al lavoro di tutti, ed è un imprenditore che vuole mettere qualcosa di più nella sua azienda, in quello che fa la sua azienda. Allora, Brunello Cucinelli, iniziamo dalla carta d'identità. Sì, ho 56 anni e abito in questo piccolo paese a Solomeo. Ma devo dire che fino a 15 anni abbiamo fatto una vita da contadini bellissima, non ho mai visto i miei genitori litigare, quindi ho avuto una bellissima infanzia. Poi siamo andati ad abitare in città a Perugia e mio papà è andato a lavorare nella classica fabbrica. E devo dire che lì tornava la sera molte volte offeso dal suo titolare e non capivo perché un essere umano dovesse essere appunto offeso. E da lì probabilmente è nato qualche cosa che mi sono detto, qualsiasi cosa faccio nella vita vorrei farla per rendere il lavoro dell'uomo più umano, vorrei dare dignità all'essere umano. E come mai questa scelta di mettersi nel campo appunto della moda, del tessile? Sì, devo dire che poi tra 15 e 25 praticamente non ho fatto niente, perché erano gli anni 70 dove ho studiato geometri, sì, ho promosso ma non ho studiato quasi niente, poi ho fatto ingegneria 2 anni, ho dato un solo esame, ho fatto la vita classica del bar dei primi anni 70, quindi bellissima, dove 70-80 persone la sera si incontravano e lì c'era il nulla facente, l'imprenditore, la prostituta. È per me stata la vera scuola, cioè di vita, cioè l'incontro con l'umanità più reale, vera, più concreta, come la descrive Guicciardini, bellissimo devo dire. Poi ebbi questa idea a 25 anni di fare cashmere colorato, devo dire la sera per la mattina con estrema semplicità decisi di colorarlo, perché l'ispirazione fu il mio stimato Benetton, il cashmere perché volevo fare qualche cosa che si lasciasse in eredità, sai, sono quei piccoli sogni. Ma devo dire che avevo un annetto prima studiato Theodor Levitt, questo grande amante del marketing americano, che sosteneva che noi paesi industrializzati avremmo dovuto produrre cose di grande qualità, perché nel giro di 10-15 anni sarebbero arrivati nuovi paesi. Quindi l'idea fu abbastanza carina, cashmere colorato. Cioè entrare in un settore dove l'Italia era già presente, però con una novità, appunto i colori, che non era una novità, era solo la novità quello di applicarla al cashmere. Esatto. E come mai non ci aveva pensato nessun altro, per dirlo ma un po' così? Questo non lo so, credo che sia la legge della vita, ma io questo l'ho fatto in 2 giorni, quindi non c'era nessuno studio. Lo studio probabilmente era di produrre qualcosa di grande qualità. E quindi questa fu un po' l'idea. Quindi qualcosa che piacesse, che desse soddisfazione, che andasse un po' a colpire non solo il bisogno immediato, ma anche l'emozione, il sentimento delle persone. Sì, devo dire che feci queste t-shirt di cashmere, arancio, gialle, celesti, e fu una bella novità. E l'azienda è proprio nata dal nulla? Da niente, io non avevo neanche una lira a quei tempi. Mm-hmm. E è stato comunque molto interessante, perché andai subito a vendere in Trentino Alto Adige, perché avevo letto che erano grandi pagatori. E lì iniziai, ho venduto le prime 53 pullover e devo dire che mi sentivo come Alessandro Magno. La stessa sensazione di oggi. Quindi un'azienda fai da te, quindi è possibile ancora, quando è iniziata l'attività? 30 anni fa. 30 anni sì. Fa, è ancora possibile negli anni 80 fare l'imprenditore fai da te, quello che è diventato forse famoso nel dopoguerra, nel primo dopoguerra, con tanti imprenditori che sono cresciuti quando c'era molto campo libero. Forse negli anni 80 già cominciava a esserci un po' di concorrenza, l'ingresso dei cinesi. Sì, però il mondo è più grande. Secondo me anche oggi abbiamo le stesse chance, le stesse possibilità. Il problema è avere un'idea nuova, che non è facile. Ecco, quindi un'azienda che si è insediata subito a Solomeo. Sì, ma io avevo questo piccolo sogno, abitavo in questo piccolissimo paese, che era il paese di mia moglie perché io abitavo vicino prima, e ebbi questa idea di fare la fabbrica in questo micro castello. Chiaramente non avevo soldi, acquistai la prima parte perché volevo in effetti avere tre cose speciali: far lavorare le persone in un luogo particolarmente bello, volevo restaurare, che è stato sempre il sogno della mia vita, per rendere a coloro che verranno dopo di noi, sentendomi in qualche maniera custode dei luoghi e custode anche della fabbrica, e questo era l'obiettivo, perché volevo onestamente cercare di fare impresa con etica, dignità e morale. Non so se ci riusciamo, ma l'obiettivo era questo. Io credo nel profitto, ma credo in un profitto che poi in qualche maniera venga distribuito tra l'impresa, il titolare, i ragazzi che lavorano con me in qualche maniera, e il 20% di profitto per l'umanità. Come abbellire l'umanità? In qualsiasi modo, con una chiesa, al restauro di un monastero piuttosto che una piazza. Ecco, quindi Solomeo è stata gradualmente anche restaurata e anche integrata, perché non solo si è restaurato quello che c'era, ma si è fatto anche qualcosa di nuovo. E l'obiettivo era appunto di restaurare quello che c'era del 1300-1400 ed abbellire. L'ultima operazione è stata appunto costruito questo per me splendido teatro di ispirazione rinascimentale. Perché anche questo appunto è un progetto un po' a 5 secoli, no? Un'impresa ha un progetto a 3 anni, 5, poi secondo me deve avere quello per secoli. Il teatro per noi rappresenta il progetto a 5 secoli. Beh, adesso uno dei problemi delle imprese è che ragionano un po' troppo con la vista corta, ragionano sulla trimestrale. Il problema è quello di fare utili ogni trimestre. Avere la vista giusta forse vuol dire anche mettere un po' in equilibrio anche una vista di lunga prospettiva, cioè di lavorare non solo per l'immediato ma anche, non dico per i posteri, però per un futuro certamente vicino. Ma vede, io sono, mi reputo più industriale. L'industriale ha tempi diversi, non ha i tempi della finanza, quindi io progetto l'impresa a 3, 5, 10 anni e poi l'impresa a lato deve avere questi progetti a 10 secoli, perché secondo me così dovrebbe essere. La finanza è un'altra cosa, è un altro mestiere. Allora, com'è l'impresa Brunello Cucinelli adesso? Quante persone vi lavorano? Abbiamo 500 persone circa che lavorano in questo piccolo paese e poi abbiamo un migliaio di persone in piccoli gruppi che lavorano in Umbria e un po' nelle Marche, qualcosa in Toscana. Ma tutti collegati all'impresa? Sì, no, sono micro aziende che sono collegate a noi, con i quali abbiamo, credo, un rapporto, un bel rapporto, perché io credo nei rapporti umani. Quando Adam Smith nel 1765 scrive la teoria dei sentimenti morali, credo che sia molto molto moderna in questi momenti, da sempre, perché l'uomo ha bisogno di essere trattato con dignità morale ma anche economica. Incontri. Ancora con le note di Ludovico Einaudi, abbiamo detto un ponte, un fondo tra il classico e il moderno. Riprendiamo il nostro dialogo domenicale. Buona domenica ancora a tutti con Brunello Cucinelli, imprenditore umbro, imprenditore nel settore della moda. Abbiamo parlato della sua azienda, di questa azienda insediata a Solomeo, un piccolo paese dei dintorni di Perugia, ormai 1500 persone che lavorano, 500 nella sede principale, altre in altre piccole aziende che lavorano direttamente per Brunello Cucinelli, in un settore complicato ma in cui sono possibili grandi esploit come quello della moda. Allora guardiamo, abbiamo visto questa azienda, come va adesso l'azienda Cucinelli? Ma devo dire, abbiamo praticamente finito la campagna vendita invernale. Per noi in questo caso devo dire è andata molto bene, quindi prevediamo un anno con un aumento più o meno del 15%. Siamo molto contenti perché abbiamo famiglie intere che lavorano nella nostra impresa. E questo, quindi avete superato la crisi anche il 2008-2009, sono stati anni forse un po' complessi, ma in cui siete... Complessi, ma siamo riusciti a fare praticamente nel 2008-2009-2010 un 50% d'aumento, quindi siamo molto contenti. Devo dire, perché il sogno di questo triennio era veramente di mantenere le persone al lavoro. Era quello l'obiettivo, perché probabilmente nel 2008 ognuno di noi aveva progettato delle cifre abbastanza difficili, che forse non si sono verificate. Ma quello che vorrei dire, avendo finito praticamente la stagione della moda, che è stata una stagione molto importante, perché con chiunque abbiamo parlato si è tornati a riprogettare. C'è chi ha progettato a meno 5, a meno 7, a meno 2, ma c'è progettazione, quindi un'atmosfera direi totalmente diversa da un anno fa. Cioè si muove con un po' di fiducia guardando il futuro, vedendo un po' quello che c'è di rosa, per stare dei colori, perché i colori sono in fondo uno dei punti di forza di Brunello Cucinelli, più quello che c'è di rosa che quello che c'è di grigio. Il grigio non è un colore che forse può essere anche di moda, indubbiamente, sì. Il grigio, però nell'ottica così economica di solito si preferisce guardare ai colori più di speranza. Ma mi sembra che siamo tornati appunto a progettare, anche se con cautela, se volete anche con un filino meno di arroganza e con un filino più di gentilezza, perché sono abbastanza convinto che la gentilezza salverà l'umanità in questo momento molto particolare. E c'è un modo anche di essere in presa gentili al proprio interno. Quali sono le politiche del lavoro, per dirla in maniera un po' burocratica, della Brunello Cucinelli? Io volevo praticamente un po' adottato la regola benedettina a cui mi sono ispirato, che per me è stato uno dei miei grandi maestri dell'umanità, come Marco Aurelio piuttosto che Alessandro Magno. Io vorrei che gli esseri umani lavorassero durante il giorno. Noi lavoriamo dalle 8 alle 6 di sera, con una pausa importante, perché nel centro Italia il pranzo è qualcosa di molto serio. Molti vanno a casa a mangiare con le famiglie, però alle 6 di sera si smette di lavorare, perché, come dice San Benedetto, ogni giorno l'essere umano ha bisogno di curare la mente con lo studio, l'anima con la preghiera e il corpo. Quindi a me piacerebbe che dopo le 6 ognuno fa quello appunto che vuole con la propria famiglia e tutto, perché questo all'indomani ti rende diverso, migliore, forse più creativo. Ho sempre pensato che il tasso di creatività è alto laddove c'è un'atmosfera molto speciale, no? Quando Rousseau dice: passeggiando nei miei boschi riesco ad essere subdio, riesco ad avere i miei deliri campestri. In qualche maniera l'ambiente di lavoro determina molto. E c'è partecipazione da parte dei lavoratori, vivono questa azienda come qualcosa di proprio. Devo dire, questo mi piace molto, è la cosa che un po' più mi affascina, anche perché nel 2008, quando le cose insomma a settembre andavano molto male, io dissi unicamente: guardate, io ho grande stima di voi, l'azienda per un anno e mezzo può permettersi di non licenziare, quindi io investo tutto su voi. Poi alla fine del 2009 non sappiamo come sarà, probabilmente dovremo farlo, sarà molto difficile licenziare. E devo dire che ho chiesto: dovete essere ancora diversi, dovete essere creativi, geniali, specialmente nei rapporti umani, perché a parità di condizioni il rapporto umano fa la differenza. E poi sono passati quasi 2 anni, siamo in queste condizioni, quindi sono particolarmente contento per la nostra Umbria, per la nostra Italia. Ecco, l'Umbria e l'Italia, cos'ha di differente l'Umbria? Quale valore? È un posto dove si respira un po' anche forse San Francesco, si respira un po' di spiritualità, San Benedetto, tanti santi che hanno vissuto lì, ma anche uomini che hanno poi lavorato concretamente, che hanno comunque costruito una realtà che comunque resta a misura d'uomo. Ma guardi, è un anno speciale perché abbiamo avuto tantissimi premi, il Leonardo, l'imprenditore dell'anno, questo premio ultimo dato dall'Associazione Industriale Italiana, e questo secondo me è un grande dono alle nostre genti, alla fierezza, alla nobiltà spirituale, alla dedizione, all'umanità, alla tolleranza degli umbri. Noi abbiamo lavoratori che hanno il senso di responsabilità molto alta, questo probabilmente viene anche dalla storia dei nostri santi, che in qualche maniera si respira questa atmosfera francescana e benedettina, no? Questa regola benedettina abbastanza rigorosa, però bella particolarmente, almeno per me. Che era una regola anche sul fatto di avere coraggio delle proprie idee, portarle avanti, metterle di fronte alla realtà e far capire che in fondo aver fiducia nelle persone è qualcosa che paga. Beh, a un certo punto ci sono delle espressioni di Benedetto quando dice all'abate: devi essere dolce ma molto rigoroso, devi essere un eccellente maestro e un generosissimo padre. Io le trovo bellissime questi aggettivi che Benedetto dà al suo abate, quale responsabile della sua comunità. E poi in fondo sono espressioni che mettono insieme anche quella che possiamo considerare una cultura religiosa con una cultura più laica, che non esclude nessuno, che in fondo tutte e due hanno al loro centro la persona. Assolutamente, io sono abbastanza convinto, devo dire che questo Natale sono riuscito a trovare anche il mio rapporto con il mio Dio, che credo che possa essere un anima mundi sopra tutti, che si possa realizzare in dignità e giustizia nel lavoro, nella vita. Quindi io trovo gli umbri particolarmente speciali in questi rapporti molto gentili, come dicevo prima, perché in questo momento dove le razze si miscelano, gli uomini si miscelano, forse la gentilezza potrebbe diventare la prima grande arma. Ecco, lei gira anche molto il mondo, perché Cucinelli non è solo italiana, ha anche un grande mercato all'estero. Quali sono i maggiori mercati e soprattutto volevo chiederle che cosa trova all'estero di, anche di ispirazione positiva per portare in Italia? Sì, noi esportiamo il 65%, il maggior mercato è l'America, che facciamo 25%, poi abbiamo molti altri mercati, quello tedesco importantissimo. Sì, io vivo 4 mesi all'anno in giro per il mondo, ma quello che ho cercato di portare con i nostri prodotti è di portare anche la nostra cultura italiana, il nostro modo di vivere, perché guardate, chiunque immagina un indiano e un cinese che il modo di vita, il migliore forse è quello europeo, però io non dico che pensa all'europeo, pensa all'italiano, il modo di vita italiano, quindi io credo che abbiamo delle grandi chance per il futuro. I nostri prodotti di grandissimi manufatti, di qualità, artigianalità e creatività, possono avere per il futuro un bello spazio. Possiamo dire che i prodotti che cercano di portare un po' di civiltà italiana, una civiltà che appunto nasce dall'insieme di tante espressioni che però hanno avuto in fondo il grande obiettivo di salvare la bellezza. La bellezza e la piacevolezza, la bellezza delle persone è qualcosa che va comunque difesa e va in certo modo esaltata. Ah sì, cioè Dostoevsky dice la bellezza salverà il mondo, ma San Francesco dice a Chiara: quando tu vieni questa sera in convento sappi che devi mettere l'abito più bello per presentarti davanti a Dio. Io vedo che quando vado in giro per il mondo, devo dire, ci guardano con una certa stima, con un certo fascino. Ecco, quello io vorrei portare, la mia Italia, che io stimo moltissimo, mi piace molto vivere e lavorare in Italia. Forse anche in Italia ci vorrebbe un po' più di autostima, siamo molto spesso portati a parlare male di noi stessi, a disprezzare un po' questo paese che ha certamente tanti problemi, però ha certamente anche tante e forse altrettante e ancora di più risorse per superare e trovare soluzioni ai problemi. Ma c'è un mio grande maestro, Spinoza, che dice, secondo me, la più bella espressione sulla tolleranza umana. Dice: io non sono venuto al mondo per disprezzare e tantomeno per giudicare. Io sono venuto al mondo per conoscere. Io credo che dobbiamo un po' tornare ad avere rispetto per il lavoro altrui, per il modo di vita altrui, per il modo di pensare altrui. Dobbiamo ritrovare garbo e gentilezza nei rapporti. Non è che non dobbiamo esprimere ciò che pensiamo, ma farlo con onestà intellettuale e con grande dignità e rispetto per gli altri. Quindi avendo apertura verso gli altri, difendendo le proprie idee, perché è giusto anche difendere le proprie idee, ma essere aperti anche al dialogo. Sì, ma farlo anche con garbo, perché vedi, San Francesco dice una cosa bellissima: se tu rimproveri qualcuno, lui ti ascolta, oltre un limite diventa offesa. Ecco, io trovo che dobbiamo abbassare i toni in questo senso, avendo rispetto per l'opinione altrui. Ecco, purtroppo la gentilezza non è una categoria del dibattito politico, molto spesso, guarda, appunto anche il confronto che si ha in televisione, qualche volta anche per radio, tra i politici non c'è questa categoria, prevale lo scontro, forse non l'offesa, però sicuramente lo scontro anche duro, forse anche questo dibattito politico dovrebbe assumere qualche tono più di rispetto. Ma non è solo però un problema politico, è un problema politico, giornalistico, industriale. Quando ci incontriamo fra industriali siamo arroganti, fra politici siamo arroganti, fra giornalisti siamo arroganti. Dobbiamo tornare ad essere migliori, rispettando il lavoro altrui, perché noi diciamo che è un problema politico, ma non è vero, è un problema nelle nostre famiglie, è un problema nei rapporti umani giornalieri fra marito e moglie. Dobbiamo ritrovare quella serenità dell'anima e quella stima reciproca nel lavoro altrui anche. Quindi ritrovare una cordialità che si può ritrovare anche passeggiando per le strade di un paese, guardando un panorama e sapendo apprezzare i colori del cielo. Sì, anche salutandoci. Ieri mattina sono stato ospite di una televisione qui a Milano. Lavoro nel nostro ufficio, era alle 8:30, non si salutava nessuno. È impossibile, questa è una cosa che non mi piace, mi piacerebbe l'inverso. Imparare un po' a sorridere di più? Ma il sorriso ingentilisce l'anima, no? La gentilezza forse è la forma migliore dell'anima. Dobbiamo ritrovare gentilezza e stima. Poi in fondo questa è politica commerciale. Se le persone trovano amore per la bellezza, ammireranno sempre di più i prodotti Cucinelli. Ma io spero che ammirino i prodotti italiani, i prodotti umbri. Ma vede, quando c'è bellezza e quando si lavora bene, probabilmente la creatività è più alta. Cosa può spingere la creatività delle persone? La spinta verso il bello, il giusto, il buono? Ma vede, io credo che dobbiamo pensare che ogni essere umano ha una quantità di genio, di diversa intensità e di diversa natura, ma genio ce l'ha. Noi invece troppo spesso pensiamo che sono pochissime le persone geniali, non è così. Siamo tutti un po' geniali, questo forse è il messaggio che vorremmo dare con Brunello Cucinelli. Ringraziamo Brunello Cucinelli di questo dialogo molto costruttivo, molto ricco di speranza nel guardare avanti. Tanti auguri per la sua attività. Ringraziamo Peter Bascapè in regia, Anita Panizza in redazione, e ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato sul sito www.radio24.it, e con qualche nota di Ludovico Unardi vi auguriamo ancora buona domenica.